mi hanno dato del secchione. Cazzo, 4 anni. È vero, allora, visto che stiamo facendo quasi una sorta di autocoscienza, ho studiato, io sono uno di quelli figli di gente povera. Mio padre era un impiegato, un modesto impiegato, ho avuto la possibilità di studiare e allora c'erano delle borse di studio che facilitavano gli studi dei non abbienti. Io percepivo, me lo ricordo, 500.000 lire l'anno, che allora erano tanti, studiavo anche. No, 500, me lo ricordo bene, vai tranquillo, perché abitavo fuori Milano, quelli di Milano erano 250.000, oltre 40 chilometri erano 500.000, si ricordano bene queste cose perché lavoravo, studiavo, mantenevo una certa media e è vero, forse era un secchione, comunque così è. Allora, veniamo a noi, a parte le battute. Allora, io partirei, mi è stato chiesto, sembra quasi di andare un po' fuori tema, dopo gli interessantissimi discorsi che così mi hanno riportato parecchio indietro anche nelle diversità di vedute, di modi di interpretare quegli anni. In realtà non credo che siamo fuori tema, perché comunque abbiamo parlato delle figure dei poliziotti, tu hai fatto un accenno, quindi tutte le polemiche che ben conosciamo che sono state riprese recentemente a proposito, no? Dei poliziotti che si tolgono il casco, dei forconi e quant'altro. Abbiamo parlato di terrorismo, quello vero, quello di Stato, quello delle stragi fasciste o comunque di Stato, quindi non siamo assolutamente fuori tema. Allora, parliamo di questa storia recentissima. Io partirei proprio da Caselli. Perché da Caselli? Beh, perché è molto importante sapere cosa pensano i tuoi amici, ma è decisivo, importantissimo sapere cosa pensa il tuo nemico, soprattutto quando fa delle dichiarazioni pubbliche. Allora bisogna studiarle e capire cosa c'è scritto tra le righe, perché naturalmente questi soggetti non possono sbilanciarsi. Qui c'è una sua dichiarazione subito dopo gli arresti, virgolettata, non smentita, del Manifesto, quindi penso che sia vera, non perché del Manifesto, ma perché virgolettata e non smentita, e Caselli dice: la situazione della Torino-Lione è complessa, articolata e difficile. Non si può pensare di delegare tutto a magistratura e forze dell'ordine. Un problema così complesso vuole molteplici cure sul piano politico, economico, finanziario e della informazione. E queste mi sembrano estremamente interessanti, queste dichiarazioni, sotto un duplice aspetto. Da un lato, il capo della Procura di Torino, prossimo alla pensione, che io ben ricordo dagli anni 60-70, uno dei fondatori di Magistratura Democratica, dimostra una perfetta consapevolezza che sta svolgendo la magistratura un ruolo di supplenza. Lo dice con assoluta chiarezza. Secondo punto, c'è stata una piccola provocazione laterale, ma non posso tenere conto di tutte. lo dice anche Berlusconi, ma a questo punto Berlusconi... No, non è un caso, ma a questo punto Berlusconi è capace di tutto, il contrario di tutto, l'ha fatto per 20 anni, figuriamoci adesso. Però, scusa, prossimo a seguire un attimo, altrimenti sono troppe le divagazioni. Allora, dicevo, dimostra questa dichiarazione intanto la consapevolezza di svolgere un ruolo di supplenza e poi afferma chiaramente che la questione TAV necessita di un intervento politico. Compagni, non è così ovvio che il signor Caselli faccia subito dopo alcuni arresti con quel tipo di accusa una dichiarazione di questo tipo. Ora, se abbiamo a che fare con una persona ottusa come Alfano, ad esempio, che si è più volte espresso su questo tema, allora è ovvio che la sua ottusità gli consente di dire: l'opera è stata deliberata, l'opera deve andare avanti, punto e basta, ignorando quella che è la ricchezza e l'importanza di una lotta che va avanti, come ben sappiamo, da oltre 20 anni e che coinvolge la popolazione della valle. E veniamo al concetto di supplenza e al concetto di terrorismo. Allora, innanzitutto un chiarimento, una mia opinione personale: non sempre la supplenza della magistratura in genere è negativa. Portiamo un esempio recente, la sentenza della Corte Costituzionale sulla legge elettorale. Nella inerzia interessata, sappiamo bene, nell'inerzia molto interessata dei partiti, 8 anni di immobilismo totale assoluto, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale sotto un duplice aspetto la legge che era in vigore, che è in vigore fino a quando non viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Ora, questa, se vogliamo, è una supplenza buona, sia ben chiaro compagni, io sto parlando nell'ambito di un discorso puramente istituzionale, le loro contraddizioni interne, sia ben chiaro. Questa è una supplenza che possiamo definire buona perché costringe comunque a un inevitabile, per vuoto legislativo, intervento politico. E poi però ovviamente c'è la supplenza che possiamo per contrapposizione definire cattiva, ed è il nostro caso con la contestazione del reato di terrorismo, reati con finalità di terrorismo ai compagni e alla compagna che sono stati arrestati. Caselli, che è una vecchia volpe, un vecchio uomo e servo dello Stato, sa benissimo che dal punto di vista giuridico è una forzatura che non sta né in cielo né in terra, è insostenibile sul piano tecnico. Però intanto ha trovato una donna, GIP, giudice di indagine preliminare, non so quanti studenti di giurisprudenza ci siano qua, una GIP che ha sostenuto questa accusa e ha emesso la misura cautelare, vedremo tra poco dinanzi al Tribunale della Libertà di Torino, che sarà sicuramente adito naturalmente dagli avvocati difensori, che cosa succederà. L'accusa è assolutamente infondata e insostenibile da un punto di vista tecnico, ma questo non vuol dire naturalmente, lo sappiamo bene, che il Tribunale della Libertà, nonostante la sicura e indiscussa bravura degli avvocati, accolga quello che è l'istanza di riesame. Va bene. Caselli allora è consapevole di questo, ma ha fatto la forzatura. Ha fatto la forzatura. Perché? Perché ha fatto una scelta politica ben precisa per tentare di frenare, di arginare quel movimento che si sta rivelando come inarrestabile, va avanti da oltre 20 anni. Il primo passo rispetto alla situazione attuale è stato fatto un paio d'anni fa, nel 2011. Nel 2011 una legge ha dichiarato il cantiere di Chiomonte, lo ricorderete tutti, area di interesse strategico nazionale, insomma una sorta di area di interesse militare con tutte le limitazioni all'accesso e quant'altro che questo comporta. Oggi c'è l'accusa di terrorismo per una serie di danneggiamenti ad automezzi e a strumenti di lavoro. Il terzo passo, che in questa escalation di repressione folle sul piano giudiziario, il terzo passo che possiamo immaginare è quello della contestazione del reato associativo, banda armata, associazione eversiva, associazione sovversiva, e con qualche piccolo problema sulla selezione dei soggetti destinatari di un'accusa di questo tipo, perché quando si scherzava prima con gli amici e compagni con cui mi sono intrattenuto prima dell'inizio della riunione dell'assemblea, si parlava di valle armata, nel senso che dovrebbe essere contestata una banda armata, un'associazione sovversiva e eversiva a tutta la valle o pressoché tutta la valle. Saremmo evidentemente nel ridicolo, però nel ridicolo ci siamo già adesso. Perché? Allora, qualche aspetto tecnico. Io dicevo prima a Robertino, gli avvocati che parlano di questioni tecniche sono sicuramente sempre noiosi, però, ed è questo è vero, è indiscutibile, però è anche vero, se vogliamo affrontare il nemico, lo Stato, in questo caso sotto l'aspetto del potere della magistratura, sul terreno loro, non dobbiamo trascurare anche questo aspetto. Allora, sono stati contestati gli articoli 280 e 280 bis del Codice Penale. Il primo è l'attentato per finalità terroristiche o di eversione, il secondo atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi. Sono state usate bombe Molotov, rinvenute 3 bombe Molotov inesplose, sono stati usati, così dicono, dei razzi artigianali e quant'altro, e questo ha consentito quel tipo di contestazione. E allora si continua a usare questa parola terroristico, terroristico, terrorismo, finalità di terrorismo, no? Proprio una sorta di mantra, ma nessuno sa che cos'è il terrorismo, nel senso che non c'è una definizione tecnico-giuridica valida del termine terrorismo, non c'è, non esiste. Una definizione compiuta e soddisfacente, dico nei miei appunti. La nostra norma interna è il 270 sexties, perché a forza di mettere bister, quater, quinquies, si è già giunti a, per ora siamo al sexties. Io qui veramente dovrei leggerla, e questa è la parte ancora peggiore proprio, però d'altra parte vi dovete rendere conto, una lettura velocissima del testo. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che per la loro natura o contesto possono arrecare grave danno ad un paese o a un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o a destabilizzare, distruggere le strutture pubbliche fondamentali. Questo è il 270-sexies. Vedete, anche senza essere avvocati, giuristi o quant'altro, anche da profani, si capisce che però in realtà non ha ancora detto che cos'è il terrorismo. Non ha ancora detto che cos'è il terrorismo. Ora, questa norma risale a 8 anni fa, al 2005. Sono andato a vedermi un attimo una dichiarazione che avevo in mente, avesse fatto all'epoca Pisanu. Questo fa parte del decreto Pisanu, il pacchetto Pisanu. E il signor Pisanu dice una cosa molto interessante che mi dà ragione quando dico che non c'è una definizione di terrorismo. Perché dice lo stesso Pisanu, volontariamente lo Stato ha rinunciato a formulare una definizione di terrorismo, lo dice lui, essendosi trovato in una certa difficoltà, stretto tra la definizione di cui alla decisione quadro del Consiglio europeo e quella delle Nazioni Unite, e ritenendo inoltre, data la delicatezza e la complessità della materia, che fosse meglio rinviare la soluzione alla valutazione del Parlamento. È peccato che questo non è mai intervenuto. Questo non è mai accaduto. Quindi, per bocca dello stesso Pisanu, sappiamo che sì, c'è una norma, si parla di questo argomento terrorismo, ma non c'è una definizione tecnica del concetto di terrorismo. Qui mi ero anche appuntato di leggervi la Convenzione dell'ONU, perché vedete che Pisanu fa riferimento alla legge quadro, alla legge del Consiglio europeo del 2002, la decisione quadro, e alla Convenzione ONU del 1999. Vi risparmio la lettura della Convenzione ONU del 99. Sulla decisione quadro del Consiglio europeo mi limito a dirvi che segue il criterio della tipizzazione delle condotte, nel senso che elenca in modo tassativo, importante questo, una serie di condotte. Dice, bene, questi sono atti terroristici, chi commette questi reati è perseguibile per attività terroristica. E chi non è nell'elenco? È tassativo, e infatti non lo Stato italiano, ad esempio, che pure ha recepito la decisione quadro, non ha recepito, nel senso che non fa proprio il contenuto di questa decisione, perché non vuole correre il rischio di non poter inquadrare come attività terroristica un'attività non prevista in questa decisione quadro. Insomma, si vuole riservare la possibilità di incriminare altre fattispecie. Allora, la Convenzione dell'ONU del 1999, che tenta di definire attività terroristica e lo fa senza tipizzare le condotte, ma dando una definizione estremamente generica, si scontra con un problema molto molto grosso, molto molto grave. Quella definizione vaga, generica, ampia, costringere una popolazione a fare determinate scelte, eccetera, eccetera, eccetera, è applicabile agli stati. È applicabile alle organizzazioni internazionali. Allora come la mettiamo? Applicarla ad Al-Qaeda naturalmente va benissimo per loro, ma perché non si può applicare ad esempio agli Stati Uniti? Ma c'è una quantità di casi, parlo da un punto di vista strettamente tecnico, naturalmente mancano, o meglio ci sono ma non vengono utilizzati, gli strumenti giudiziari internazionali perché questo avvenga, ma altrimenti avremo una quantità di capi di imputazione da levare che metà ne basta, se vogliamo ridurre un discorso politico molto grave e molto importante all'aspetto giudiziario. E allora le renditions, Guantanamo, i droni, non so quanti sanno tra di voi quanti morti ammazzati hanno fatto i droni ad esempio in Pakistan, non sono usati solamente in Pakistan abbiamo un dato recente che ci parla tra il 2004 e il 2013, quindi 9 anni, non è aggiornato per gli ultimi tempi, per gli ultimi mesi di quest'anno, 3.461 morti ammazzati, di cui centinaia, centinaia, centinaia di vittime civili, fermo restando che secondo me anche le altre sono vittime civili, visto che sono omicidi mirati, quindi sono state ammazzate delle persone con dei semplici sospetti forniti dall'intelligence di essere organizzazione, di essere membri di organizzazioni armate. Questo è stato fatto ed è stato incentivato questo fenomeno dal signor Obama, premio Nobel per la pace e per le buone intenzioni dichiarate prima della elezione. Se questo vale per gli Stati Uniti, per andare velocissimo, provate a immaginare per Israele. Provate a immaginare per Israele. La pulizia etnica in corso in Palestina, sarebbero decine e decine di capi di imputazione in base a quella convenzione ONU del 99. L'apartheid, la detenzione amministrativa, gli omicidi mirati, piombo fuso con i suoi 1400 morti ammazzati e quant'altro. Allora, il problema qual è? Ah beh, possiamo anche pensare alla NATO per quanto riguarda l'aggressione in Libia, la distruzione di questo paese. Jugoslavia sicuramente, avremo l'imbarazzo della scelta, avremo sicuramente l'imbarazzo della scelta. E allora grande difficoltà, abbiamo una definizione di attività terroristica che si può tranquillamente applicare a Stato e a organizzazioni internazionali. Allora è meglio non fare riferimento. L'altra, una serie di tipizzazioni. La nostra, il 270-sexties, non chiarisce assolutamente nulla e allora nella carenza legislativa si è fatto riferimento, è stata elaborata la cosiddetta giurisprudenza, c'è stata un'elaborazione giurisprudenziale caso per caso ed è quanto accadrà adesso con questa contestazione per la Val di Susa, che quindi diventa estremamente importante anche come precedente giurisprudenziale. Un'ultima notazione tecnica e poi ho finito di tediarvi su queste componenti tecniche. Il dolo previsto, l'elemento soggettivo previsto, è un dolo specifico. Chi compie una determinata attività, chi tiene una determinata condotta, deve ripromettersi una delle tre finalità che vi ho letto prima nel 270-sexties, e cioè o, alternativamente, tutte e tre, tanto di guadagnato, ma basta alternativo. Allora, intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici a compiere o astenersi da un qualsiasi atto, distruggere le strutture politiche fondamentali. Allora, io ho avuto modo di leggere in modo molto molto rapido la misura cautelare. Vediamo cosa dice questa misura cautelare in relazione a queste finalità. Innanzitutto è estremamente debole, sto rubando un po' di lavoro ai compagni che andranno a difendere i compagni arrestati al Tribunale della Libertà, ma anticipo quelle che sicuramente saranno argomentazioni che loro svilupperanno come e meglio di me, con maggiore studio e maggiori capacità sicuramente. Allora, sicuramente la misura è debolissima da un punto di vista strutturale, perché sono circa 150 pagine, ampia descrizione delle attività di indagine, le perizie foniche che hanno permesso di individuare i quattro soggetti e quant'altro, su 150 pagine, 6-7 paginette, non di più, dedicate a questo che invece è il nodo fondamentale, il nodo principale, se si è voluta contestare la finalità di terrorismo. Che cosa fa questa misura? Dice: sono state poste in essere queste condotte, sono stati distrutti questi automezzi, questi strumenti di lavoro, c'è il reato di danneggiamento, va bene, discutiamone, è stato applicato il fuoco a questo, c'è il reato di incendio, benissimo, discutiamone, sono state buttate molotov contro polizia, carabinieri, esercito, c'è il reato di tentato omicidio, discutiamone, ma stiamo parlando di reati senza finalità di terrorismo, quello che è stato contestato finora in tutti gli altri procedimenti penali pendenti, e sono tantissimi. Ma l'elemento nuovo, il terrorismo, dimmi dov'è? Questo lo sappiamo che gli puoi contestare tutto questo, ma adesso tu gli contesti anche 280, 280 bis ben più gravi in termini di entità di pena, come accennava il compagno, il giovane compagno che è intervenuto prima, in termini di durata della custodia cautelare e quant'altro. E allora dov'è il terrorismo? Non si sa, perché la misura non lo dice. Sono andato a guardarmi un attimo qualche precedente nel poco tempo che ho avuto a disposizione e ho trovato una critica, una nota critica, la cosiddetta dottrina, gli studiosi, no? A una ordinanza, una misura cautelare del GIP di Firenze contro un aderente all'Animal Liberation Front che aveva bruciato 8 furgoni di un caseificio. È stata ritenuta sussistente in questo caso l'aggravante. dal GIP, non so che esito ha avuto questa vicenda, che è recentissima perché l'ordinanza è del gennaio di quest'anno. Sono andato però a leggermi la nota critica, perché è di un illustre importante studioso, e questo importante studioso, criticando duramente questo provvedimento del GIP, dice: ma no, il requisito indefettibile del terrorismo, che tra l'altro è un mezzo e non un fine, il terrorismo non è una finalità, è un mezzo, eventualmente un'attività terroristica, un'attività violenta, può essere un mezzo, non può essere una finalità. La finalità può essere l'eversione, la sovversione, la rivoluzione, ma non può essere il terrorismo il fine. Comunque, il requisito indefettibile del terrorismo è quello di intimidire la popolazione con atti di violenza indiscriminati. Non lo dice Ugo Giannaggi, conterebbe nulla, lo dice un importante studioso a commento di questa sentenza. A commento di questa sentenza. E voi capite che ci siamo bene dentro, anche un profano lo capisce che questo è il nodo. Ma se questo è il nodo, allora è terrorismo Piazza Fontana, è terrorismo la strage di Brescia, Piazza della Loggia, è terrorismo la stazione di Bologna, queste attività terroristiche, e sappiamo chi sono i terroristi in tutti questi casi, non mi importa l'accertamento giudiziale più o meno compiuto in relazione a questi eventi. Laddove si è giunti, laddove non si è giunti, non si è giunti all'accertamento giudiziario delle responsabilità, ma come diceva qualcuno, noi comunque sappiamo di chi è la responsabilità, sappiamo chi sono gli autori e i responsabili. E allora, e mi avvio alla conclusione, la misura cautelare contro i compagni e la compagna tradisce la sua finalità politica proprio su questo punto, su questo che è debolissimo. Alcune perle per sorridere, nei limiti in cui si può sorridere nel momento in cui sono dentro dei compagni arrestati sulla base di queste assurdità. Alcune perle le ho annotate pur nella velocità della lettura. Dice l'ordinanza: è una pressione quella che stiamo realizzando, è una pressione quella posta in essere dai compagni arrestati perché non siano rispettati gli impegni assunti con Francia ed Europa. Cioè tutta l'attività posta in essere è volta a questo fine, perché non siano rispettati questi impegni. Ma questo è un obiettivo politico, discutiamone, è un problema politico, certamente non rientra in nessuno dei modelli che ho elencato prima, tecnico-giuridici. Dice ancora: si vuole minare la credibilità e l'autorevolezza delle istituzioni italiane con questa, è detto testualmente, esplicitamente, si corre il rischio di minare, ammesso e non concesso che questo bene giuridico esista, la credibilità e l'autorevolezza delle istituzioni italiane dopo il ventennio, ma non solo dopo questo ventennio, anche dopo gli anni precedenti che sono stati oggi rievocati. Poi dice ancora: si rischia la crisi dell'intero trasporto su rotaia, oddio mio, Dio non voglia, quindi adesso andiamo a finire anche a discutere dell'opportunità di un tipo di trasporto rispetto all'altro, ma vi rendete conto? Questo è scritto in un'ordinanza che butta in galera delle persone. Ancora si torna sul danno all'immagine del paese, e poi proprio una perla, perché quando i giudici sono ridotti a questo, e beh, allora pare veramente evidente la loro difficoltà. La perla finale che vi cito, e ho quasi concluso, è questa: si è giunti a mettere in ridicolo il ministro alle infrastrutture Lupi, che stava tranquillizzando gli imprenditori che erano incaricati di vari lavori eccetera eccetera, mentre a brevissima distanza dal Lupi che parlava e tranquillizzava andavano a fuoco una serie di camion e quant'altro, con ciò evidentemente smentendo per fatta concludenza, dicono gli avvocati, cioè con fatti concreti smentendo quello che il signor Lupi andava dicendo a questi imprenditori: state tranquilli, è tutto sotto controllo, e intanto giungevano i bagliori delle fiamme. Vabbè, allora dai, scherzi a parte, in tutto ciò non c'è nulla di giuridico. Torniamo alle parole di Caselli. Noi dice Caselli, in pratica questo, e questo è il segnale importante politico su cui vale la pena di discutere, il rapporto tra i vari poteri dello Stato, la crisi al loro interno, i loro rapporti, crisi, se c'è crisi, fino a che punto possono fare affidamento l'uno sull'aiuto dell'altro e cosa sta accadendo all'interno del nemico. Allora Caselli dice, è quasi un grido da chiede aiuto, ma io l'ho letta così, noi ci stiamo inventando di tutto, noi magistrati, ma ora intervenga la politica, fate qualcosa, però chiede l'intervento della politica, non dice abbiamo chiuso, adesso ci pensiamo noi, questi qui, ci pensiamo noi e basta, chiede un intervento della politica perché si rende conto, nonostante il suo ruolo, dell'importanza della lotta che è in corso. Se non lo conoscessi mi verrebbe quasi da dire anche della fondatezza, conoscendolo, no, questo non è possibile, non può rendersi conto di questo, ma chiede un intervento della politica. E allora, concludo con una facilissima battuta, di terroristico in questa vicenda c'è solo l'incriminazione, lo dico tecnicamente, perché è un'incriminazione che mira ad incutere terrore, mira ad incutere paura per il tipo di pena, per tutte le misure che conseguono, il non bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, la durata della custodia cautelare, eccetera, eccetera. Quindi è una contestazione terroristica. Ne arresto 4 con questa accusa per avvertirne 10, 100, 1000. Questo è detto con estrema chiarezza. No, un attimo, perché ho finito, poi lo dici. Un attimo, su, guarda, finito. E dicevo, sono scelte di politica giudiziaria, sono queste che danneggiano l'immagine del paese, ammesso e non concesso che abbia ancora un'immagine questo paese, non la valle che con la propria lotta difende il territorio e la salute. Questo è stato ribadito più volte. Una notazione di colore, poi do la parola alla compagna qui a fianco. Nel convegno che abbiamo fatto sabato scorso sul rapporto informazione-guerra sono venuti 4 esponenti dei Notav e ricordo che ancora uno di questi, Richetto, ha detto a un certo punto: noi siamo lì per difendere la valle, ma siamo lì per difendere la Costituzione. E io gli ho detto, poi quando c'è stata la fase delle domande, ma scusa un attimo Richetto, fammi capire, tu ti richiami alla Costituzione, dici che state difendendo la Costituzione, i valori della Costituzione, e ti credo, per carità, ma Caselli è uno dei fondatori di Magistratura Democratica e la Costituzione è come dire, il nodo portante dei valori di questa corrente di sinistra, tra virgolette, le metto io, della magistratura. Come la mettiamo? Quante costituzioni ha questo paese? Enrichetto è stato un attimino in difficoltà nella risposta, l'avevo fatto apposta, non perché gli voglia male, ma ha fatto, ma per evidenziare la gravità della situazione. Grazie. No, grazie mille. Io volevo solo aggiungere a conforto della giusta affermazione che i terroristi sono loro, che c'è un'altra modalità ormai praticata da tempo, che è quella di terrorizzare le famiglie della Val Susa togliendogli i bambini, dicendo che hanno fatto interventi assistenti sociali, dicendo che i bambini che hanno genitori che coinvolti nelle lotte della valle vanno trattati come bambini senza genitori adeguati. Questo è vero e proprio terrorismo, perché l'idea che ti tolgano i figli per le tue posizioni politiche di difesa è terribile. Ma che la definizione di terrorismo sia come dire, a disposizione delle decisioni del governo e della magistratura è un classico, d'altra parte, cioè lo Stato si riserva sempre proprio, cioè il potere è appunto quello di dichiarare lo stato di eccezione, di dichiarare la zona di eccezione, di dichiarare le leggi d'eccezione. C'è un episodio buffo che è indicativo però di quanto a fondo vada questa tecnica. C'era un famoso regista tedesco all'epoca del nazismo che si chiamava Fritz Lang, che a un certo punto è stato convocato da Goebbels al ministero e gli ha detto: lei è il miglior regista che in questo momento abbiamo in Germania, lei deve diventare il punto di forza della cinematografia tedesca nazionalsocialista. Lang, che già aveva preparato le valigie perché era terrorizzato, ha detto: questi mi arrestano, perché era comunista tra l'altro, e lo ha ascoltato e gli fa: ministro, forse le trascuro un fatto, fa, io sono ebreo. E l'altro l'ha guardato e gli fa, non sia stupido, siamo noi a decidere chi è ebreo e chi non è ebreo. E questo sostanzialmente, cioè lo Stato è quello che decide dove ti situi, no? E di conseguenza, questo è fondamentale proprio in relazione alle cose giustissime che lui diceva alla fine sulla faccenda della Costituzione, cioè che non esiste una meta giustizia al di sopra dello Stato a cui tutti si possa fare riferimento. Dio non esiste, non esistono i 10 comandamenti, non esiste niente di tutta sta roba. Di conseguenza non esiste il fatto che ci sia un criterio che non sia interno allo Stato. La legge la fa lo Stato e di conseguenza ciò che se uno vuole una giustizia che non sia quella, non può che riconoscere nello Stato il suo nemico assoluto. Non esiste la possibilità di avere un terreno comune con nessuno Stato, passato, presente o futuro. Se su questo non ci si fa chiarezza, e questo purtroppo lo stesso movimento No TAV non ha le idee chiare, come non hanno le idee chiare tantissimi movimenti che sono adesso su piazza e che agiscono anche con notevole impegno e con notevole incisività, ma continuano ancora a mantenere l'idea che esista che esistano istituzioni che ci possono, cioè che, sulle quali ci potremmo trovare d'accordo. In realtà si tratta di una lotta mortale fra la libertà e la società. Alla fine tutti quanti occorrerà che si schierino. Io vorrei fare una domanda all'avvocato. Non vorrei essere noioso per una questione tecnica, ma vorrei chiedere all'avvocato in che modo non si fa rientrare nel 270 sextius l'obiettivo di costringere lo Stato ad astenersi dal o coprire le aziende o portare avanti l'opera, nel senso l'opera è di interesse strategico, le aziende che ci lavorano non sono lo Stato, quindi tecnicamente i danneggiamenti credo che non siano verso lo Stato ma verso un privato, però in che modo non rientra nella definizione del sextius? Allora, la tua domanda è giustissima, perché questo è il punto debole, l'anello debole da parte nostra, diciamo così, da parte loro, sicuramente è il punto forte su cui insisteranno. Io per questo ho citato quel passaggio della dottrina, il discorso sarebbe tecnico molto complesso, che invece vedeva nella confusione della situazione che ho ricordato come requisito indefettibile e indispensabile comunque quel requisito, quello di intimidire le popolazioni con atti di violenza indiscriminati. In pratica si dice, in questo esatto, è a monte. Intanto ci deve essere la gravità della condotta in relazione al fine. Infatti, cosa aveva fatto quell'ordinanza rispetto all'animalista? Aveva detto bruciati 8 camion, è molto grave, un attimo, ma tu devi valutare la gravità della condotta in relazione al fine che uno si ripromette, e il GIP aveva detto ah, è gravissimo, 8 camion bruciati. La dottrina lo critica perché dice ma no, un attimo, rispetto alle finalità perseguite da questo che è un movimento mondiale, perché comunque fa propaganda delle proprie idee a livello mondiale eccetera eccetera, questo non può essere neppure qualificato come fatto grave. Quindi primo punto, discutiamo se quanto accaduto in quella notte tra il 13 e il 14 maggio possa essere definito grave in relazione a queste finalità. Secondo poi bisogna sposare questa tesi, questo orientamento, è giusto quello che ha chiesto, e sposare questa tesi, questo orientamento per dire che questo è il requisito, perché poi capisci che questo è veramente il nodo, il resto in quel contesto è un di più che questa dottrina reputa assolutamente non elemento essenziale del reato. È il punto debole comunque, hai ragione. Allora, due compagni... Ma come, se questo tecnicismo, vabbè. Passiamo la vita fondamentalmente a scontrarci contro lo Stato, contro i suoi progetti, contro le sue forze, contro tutto quello che rappresenta. E mi risulta un po' difficile difendermi da un'accusa di terrorismo, perché fondamentalmente tutto quello che faccio rientra in quella definizione di terrorismo. Quindi se guardano la mia vita come l'ho passata, magari non precedenti, ma un sacco di segnalazioni che portano ad abbandonare quella tesi lì, perché Antonio, Antonio, aspetta e spera, prima o poi incrimineranno anche te, stai quasi, ti stai chiamando un'imputazione. Tu tieni una condotta di vita non morigerata, ma non hai commesso reati, o comunque se li hai commessi non ti hanno scoperto. Cosa ti devo dire? Non lo so, ben per te, bravo te, non so che dire. Cioè, per voi avvocati non deve essere così semplice dal punto di vista tecnico di prendere. Beh, no, è entusiasmante, da un punto di vista veramente professionale. Io ho difeso tutti i compagni, tantissimi compagni che hanno praticato la lotta armata negli anni 70-80 in Italia, ed erano processi estremamente interessanti in cui evidentemente qualche volta l'avvocato Pelazza, io e altri che facevamo quel tipo di processi dovevamo anche, come dire, un po' lavorare di fantasia, ed erano stimolanti, c'erano belle disquisizioni tecnico-giuridiche. Abbiamo dovuto affrontare il problema della sessualità in carcere, quando un detenuto e una detenuta sono stati trovati a fare sesso assieme in gabbia, e via, ad improvvisare anche il diritto alla sessualità in carcere, e se in carcere non è possibile, in gabbia, perché lì c'è la possibilità, visto che i carceri sono differenziati per sesso. Sono processi estremamente interessanti, entusiasmanti, e si cerca di fare al meglio il nostro lavoro. Sicuramente sono processi difficili, perché sono processi di attacco da parte dello Stato rispetto a questi fenomeni. Erano processi non sui fatti reato, ma sull'identità delle persone, per cui c'erano operai che avevano giovani, avevano magari volantinato in fabbrica e rivendicavano questo loro gesto, e venivano condannati a 15 anni di galera per partecipazione a banda armata. E poi c'erano leader, capi carismatici che avevano fatto magari abiura o quant'altro, e venivano condannati a pene ridicole. Quindi era il processo non alla gravità della condotta pregressa, ma processi alla identità politica attuale del soggetto giudicato. Ma sarebbero discorsi complicatissimi da fare in qualsiasi altro momento, non adesso. Volevo dire anche una cosa rispetto alla 270 sextis. Ricordo che quando fu approvato il decreto Pisano, giusto Pelazza scrisse che una tale formulazione di fatto apriva le porte all'utilizzo di questa ipotesi di reato per fatti di lotta sociale. Ricordo proprio uno scritto che puntualizzava questo elemento, che è quanto sta avvenendo proprio in questi giorni. Insomma, ci aveva visto giusto, come in tantissimi altri casi. Non è che devo rispondere, no? Ho risposto, no. Pelazza ci vede sempre giusto, e aveva ben visto anche in questa occasione, certo. Io vorrei fare giusto un appunto, non una domanda, perché non sono un giurista e non sono capace, spero di non diventarlo mai, ma la, come dire, l'origine stessa della parola terrorismo, al di là di quello che poi sia stata la produzione della definizione del corso degli anni, a quanto so io, come poi spiegato anche nel giusto, la cosa interessante, di cui non ricordo assolutamente il nome, l'origine della parola terrorismo è da attribuire a un terrorismo di Stato, perché l'origine della parola viene da motivi politici, strettamente politici della fazione politica dominante nei confronti del suo stesso, della stessa popolazione, per mantenere la calma. Poi l'evoluzione che abbiamo avuto come definizione internazionale della cosa è tutto un dire, però io rifletterei anche sulla definizione stessa della parola terrorismo, perché a questo punto poi sì, terrorismo dovrebbe essere le bombe piazzate appunto alla loggia, penso a Fontana, a Bologna, e non boicottare o creare problemi alle società che stanno orientando all'interno degli appalti. Certo. Come ho detto in quella definizione prima, no, il terrore, la paura, profonde conseguenze sul piano del consesso sociale, nasce dalla indiscriminatezza dell'obiettivo, per quello abbiamo ricordato poco fa le stragi di Stato, la bomba collocata nella stazione, la bomba collocata nella piazza, la bomba collocata nella banca, per usare i tre casi più noti e più famosi. Da questo deriva una certa, un risultato che è il terrore diffuso e generalizzato, con tutte le conseguenze psicologiche e politiche del caso. Perché sarebbe sbagliato attribuire a dei civili o a delle persone potenti alla questa cittadinanza, se non altro la parola proprio come una forma che il governo utilizza per tenere a posto la propria popolazione. Era solo un appunto così sul comunismo. Da un punto di vista tecnico no, può essere chiaramente commesso anche da un soggetto che poi lo fa per determinate... L'evoluzione della parola è un utilizzo che se ne fa tutti i giorni sulla bocca di tutti, che le fa perdere come al solito l'origine. Il linguaggio militare, per esempio, un bombardamento terroristico è un bombardamento indiscriminato di zone abitate da civili. Ed è un termine usato correntemente, adesso meno per ragioni politiche, ma ai tempi della Seconda Guerra Mondiale era proprio una delle varie tecniche di bombardamento. Bombardamento notturno sulle città veniva definito bombardamento terroristico e il suo fine era quello di disarticolare la coesione sociale, di deprimere il morale, eccetera. Cioè, tutte cose. In generale è sempre o lo Stato o qualcuno che aspira realisticamente e prossimamente a farsi Stato a poter incassare il terrore, perché è il tipo di soggetto che ha buoni motivi di credere che se la popolazione rimane paralizzata ci guadagnerà. Il rivoluzionario non può essere mai terrorista per una ragione molto semplice, che la paralisi della popolazione non è mai nei suoi interessi, perché sostanzialmente il suo fine, al contrario, è sempre quello che la popolazione si attivi, non si paralizza, e di conseguenza l'azione indiscriminata non può corrispondere proprio tecnicamente a un obiettivo di tipo sovversivo, è a un obiettivo sempre di consolidamento sociale. Non può che essere così. Scusate il megafono. Io vorrei dirvi una cosa, che in realtà lo Stato attuale, cioè lo Stato che abbiamo in Italia, ma entro certi limiti lo Stato che vi è in Inghilterra o negli Stati Uniti o in Russia, non perché rientra nella categoria Stato, ma perché oggi i rapporti tra la classe dominante, che è la borghesia finanziaria, che è uno strato limitatissimo, e il proletariato o i lavoratori sono improntati a un terrore diffuso di Stato, cioè al di là della legislazione penale, che è la punta dell'iceberg del rapporto tra Stato e masse, vi è tutta la legislazione quotidiana o la pratica amministrativa. Noi oggi, da 20 anni a questa parte, la gioventù sta subendo un controllo sistematico di ogni momento della sua vita, cioè è sottoposta a controllo di polizia, è sottoposta a una disciplina notevolissima nella scuola che prima non c'era e che serve a risolvere conflitti sociali insanabili data la situazione attuale, è sottoposta a una legislazione amministrativa per cui se esce e parcheggia male, dicevo, viene espropriata di 3, 4, 5 giorni di stipendio se lavora, se non lavora non pagherà mai, ma viene sottoposta al pignoramento, a Equitalia, alle persecuzioni varie. Cioè noi oggi abbiamo veramente uno Stato apparato estremamente preparato a queste forme di esproprio di massa, di esproprio quotidiano. Su questo si crea poi la legislazione che sta tra il penale e l'amministrativo, tra penale e civile, e poi nel penale, Ugo ve lo può confermare, i reati di massa oggi vengono puniti con pene triplicate rispetto al fascismo. Noi abbiamo studiato giurisprudenza sui testi vicini al codice Rocco, e dobbiamo dire che dal punto di vista delle pene il codice Rocco è un esempio di democrazia ed era il codice totalitario. Oggi il furto in appartamento viene indicato in 10 anni come pena massima perché c'è l'aggravante. Chi è recidivo non esce più di galera anche per reati minimi, mentre la borghesia, il colletto bianco, lo sapete, viene trattato come viene trattato. Quindi facciamo un'analisi effettiva della vita quotidiana, dei rapporti tra Stato e classi e anche tra Stato e cittadino, per vedere il grado di terrore economico e penale della vita quotidiana, e faremo tante di quelle scoperte che ci daranno proprio una nuova chiarezza rispetto al passato. Sì, sì, a conferma di quello che dice il compagno avvocato Fullam, vi porto l'esempio del blocco stradale. È stato depenalizzato, allora uno distinto cosa dice? Beh, bene, meno male, depenalizzato, disastro. Ho difeso decine e decine di blocchi stradali, prima quando era prevista la reclusione, ma la gente proprio se ne fregava delle conseguenze, o perché sperava nella sospensione condizionale della pena se era incensurato o comunque con un precedente che la consentisse, o perché magari era anche disponibile a farsi, non tantissimo, un po' di galera. Nel momento in cui è stata depenalizzata ed è stata applicata, prevista una sanzione amministrativa elevatissima, io ho visto transitare in studio gente giustamente e comprensibilmente estremamente preoccupata, perché un'eventuale applicazione di sanzione, anche rateizzata o quant'altro, andava ad aggredire un patrimonio già estremamente modesto, che poteva essere uno stipendio o quant'altro. Andavano bene i totali impossidenti. Allora quelli stavano tranquillo perché non c'era la possibilità di infierire su di loro. A conferma di quello che diceva Sulla. Bene, sono fatte le 5:30 ormai. Ringrazio tantissimo tutti coloro che sono passati qua oggi, che hanno partecipato al corteo di questa mattina, e tutti gli ospiti ovviamente, penso che sia stato illuminante, e anche il fatto di, secondo me, avere un po' smascherato, come dire, anche in maniera ironica l'assurdità di quello che è l'accusa di terrorismo data ai compagni, penso che ci abbia un po' sollevato, ecco, da un peso, perché insomma quando l'ho sentito per la prima volta ero: ma che cazzo sta succedendo? Insomma, adesso si capisce che c'è anche la possibilità di rispondere in maniera giuridica, colpo su colpo, a questa accusa. E poi appunto il discorso noi volevamo portarlo avanti anche su mille altri piani, insomma, su quello che era stata la libreria, quello che è stata la un po' appunto la mancata risposta alla repressione, del perché e il per come, ma questi sono discorsi che avremo modo di fare, speriamo, altre volte. Oggi è stato un primo momento di ritorno dopo mesi e mesi in università, un ritorno legato essenzialmente alla storia della ex QM, e come vedete adesso le possibilità sono poche, cioè meno di quelle di prima sicuramente, perché adesso al posto della libreria c'è un ufficio disabili, ma si continuerà, e l'importante è comunque continuare ad essere presenti e ricercare anche quelli che sono i nodi principali tematici del motivo per cui non solo l'esperienza è finita, ma anche ci stanno attaccando così tanto in questo periodo. E niente, se... Giusto, allora, doveva esserci un aperitivo qua, ma non ci sarà, perché... Lo fai tu? Vai. Ah, giusto per chiudere, ribadiamo che stasera ora c'è l'aperitivo in Mandragola per la cassa antirepressione che hanno fatto i compagni a Milano, E poi volevamo rilanciare anche altri due appuntamenti che erano correlati appunto a questa serie di iniziative tra virgolette che abbiamo deciso domenica scorsa in assemblea al Telos Sassaronno in seguito all'arresto, cioè al riaggravamento delle misure cautelari che ci sono state per Toffo, che è stato uno dei ragazzi appunto arrestati per l'ex QM. Allora, lunedì ci sarà un presidio al tribunale di Busto Arsizio alle 10 di mattina in solidarietà a mezzogiorno in solidarietà alle lotte degli operai della Bennett, e poi sabato prossimo ci sarà un corteo a Saronno contro la repressione. Speriamo che sia partecipato il più possibile, appunto volevamo rilanciare questo appuntamento. E per quanto riguarda invece i compagni che sono in carcere con l'accusa di terrorismo del 280 e del 280 bis, sabato pomeriggio ci sarà un presidio a Torino sotto al carcere alle Vallette, alle 5 e mezza l'appuntamento direttamente sotto al carcere. Per chi vuole da Milano c'è un puntello in stazione alle 2, stazione centrale, e alle 2 puntuali, perché alle 2 e 12 si prende il treno, se si perde quello dopo si arriva in ritardo. Ma niente, volevo giusto ribadire questi appuntamenti e speriamo di rivederci ai prossimi appuntamenti e che non finisca qua, insomma, questo.